Grazie. Beh, io credo che sia importante anche mettere in luce che l'archeologia, viene usata come strumento di, come lo è stata anche l'antropologia, come strumento di costruzione nazionale anche al di là della questione israeliana, perché che ne so, io so, per esempio c'è lo studio di Michael Herzfeld che mostra come in Grecia l'archeologia ha teso sempre a nascondere il passato turco e a mettere in luce quello ellenico, diciamo quello classico, ma se ci pensiamo a Roma l'archeologia fascista era basata sul far mettere, cioè far splendere no, la romanità, la Roma dei Cesari e cancellare il Medioevo. Quindi è chiaro che c'è una struttura proprio potentemente di costruzione della nazione dentro a questa scienza che invece tantissimi archeologi e archeologi oggi stanno riuscendo a mettere in crisi. Insomma, poi magari ne parliamo più avanti anche perché qui abbiamo anche persone che appartengono anche a altre discipline, oltre a Francesca che è antropologa, c'è Lorenzo che è geografo e insomma islamista, islamologo e credo che avrà delle cose da dire se poi avrà voglia di alzare la mano. Però prima di introdurre l'intervento di Enrica, che invece sarà sull'uso del diritto, e abbiamo scelto di fare interventi brevi proprio per poi metterci in discussione, in dibattito, eccetera, anche con chi è qui adesso. Prima di introdurre lei vorrei dire due cose, diciamo di preambolo su questo incontro che oltre a essere il primo di questa serie è anche un incontro di presentazione di una rivista indipendente in cui è apparso che è lo Stato delle Città e in cui questo mese è stato pubblicato, abbiamo pubblicato un articolo, un'intervista a un giurista che è Luigi Daniele che insegna alla Nottingham Trent University e spiega proprio quali sono le tecniche di uso del diritto da parte di Israele. Dico due cose su questa rivista e su questo numero della rivista perché fa parte di queste metodologie di collettivizzazione e liberazione del sapere. Prima Bookchin diceva le università sostituiscono le tipografie, no? E, di fatto, lo Stato delle Città è una rivista indipendente pubblicata e distribuita in forma autonoma a Napoli attraverso una casa editrice che si chiama Napoli Monitor. Qui abbiamo portato un po' di questi numeri, ovviamente si vendono a poco quando si fanno le presentazioni, è anche l'unica occasione in cui si possono vendere, quindi poi se qualcuno ha qualche soldo in più e le vuole prendere fa un favore alla redazione. Però l'importante di questo numero è che proprio con l'idea di connettere diverse riflessioni da diverse parti d'Italia, del mondo e da diversi ambiti del sapere, questo numero ha una sezione proprio su Israele e Palestina in cui i tre articoli che ne fanno parte evidenziano tre modalità di uso dell'arte e della scienza che diciamo alimentano questo discorso che stiamo facendo adesso. C'è un articolo che si chiama Insegnare la storia in Israele e Palestina che spiega come funzionano i libri di scuola delle scuole palestinesi, i libri di storia delle scuole palestinesi e israeliani, quale parte della storia evidenziano, quale parte nascondono. Il secondo articolo si chiama Uno smantellamento audiovisivo della storia di Israele e discute di tre film, tre documentari, di cui uno tra l'altro è Tantura, che non so se avete visto, ma è un film in cui proprio si vede come un episodio della Nakba viene completamente cancellato dalla storia e lo storico che cerca di ricostruirlo intervistando centinaia di militari e di abitanti del villaggio palestinese che è stato distrutto subisce non solo un boicottaggio infernale, ma proprio una damnatio memoriae, viene cacciato dall'università e questo documentario lo spiega molto bene. Il terzo articolo invece è quello del dominio coloniale israeliano sui territori palestinesi, che è un'intervista a Luigi Daniele. Poi il numero prosegue anche parlando di estrattivismo, di lotte coloniali, di lotte, scusate, lotte indigene contro l'estrattivismo, del turismo a Napoli, del carcere, dell'adolescenza, quindi di tutta una serie di elementi, di vicende che sembrano scollegate ma non lo sono del tutto, perché certe forme di uso, per esempio del diritto, che arrivano all'estremo in Palestina, poi lo vediamo usato per esempio contro gli adolescenti napoletani che sono stati uccisi dalla polizia completamente travisando le loro storie e le loro narrazioni. Prima di passare la parola a Enrica vorrei leggere una frase di questa intervista a Luigi Daniele, che descrivendo il Security Provision Order, che è diciamo, la raccolta degli ordini militari del 2009, che di fatto è la legge nei territori occupati, cita questo articolo, l'articolo 231, e dice: l'articolo, per capire una certa forma di perversione del diritto. Poi sarebbe importante anche capire se stiamo parlando di una perversione delle scienze o della natura stessa di queste scienze, poi magari ne parliamo. E la citazione dice: l'articolo 231 dello stesso SPO afferma, cioè il Security Provision Order, afferma: chi è parte di un gruppo di cui uno o più membri commette o ha commesso durante l'affiliazione al gruppo un reato specificato nella sezione 230, fabbricare, trasportare o tenere con sé un'arma anche da taglio, è punito con l'ergastolo. E lui commenta: questo significa proprio che non vi è più personalità della responsabilità penale. I palestinesi sono punibili con l'ergastolo per un fatto commesso da altri. Quindi io credo che questa sia una buona base di partenza per discutere delle implicazioni del diritto in questa vicenda.